quando il sole d'autunno di colpo si congelerà. N ragazzino il vecchio si rincorrerà, quando tutto il mare dal fondo si prosciugherà, ed il paradiso all'inferno si mescolerà. Pioveranno le vie per noi. Quando l'orologio che noi l'inverso girerà, e il domani a un giorno passato si confonderà, quando il cero del tempo più lento si consumerà, e l'ultima scena all'inizio si incatenerà, dormiranno le vie, le nostre pazzie, finché l'inverno non finirà. E tutto è cominciato, e tutto è già finito, come una bella storia che passa di moda. È un grido nella gola, follia e la gioia, però non esce mai, non esce mai, non esce mai. Quando il sonno d'inverno di colpo si risveglierà, e coprirai i tuoi occhi fondendo il sogno alla realtà, quando un giorno di aprile la primavera sfonderà, il muro del silenzio e il suo suono si diffonderà, fioriranno le vie, le nostre pazzie.